Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la duplice veste del suo intervento, oltre che come regista. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.